Storie italiane. Il suonatore di flauto. C'era una volta, tanto tempo fa, in un enorme regno, un re e una regina che erano molto innamorati l'uno dell'altro. Vivevano una vita comoda e felice nel loro castello. Ma un giorno il re si stancò e iniziò a sentirsi irrequieto. Voleva uscire e combattere per mettere alla prova la sua forza. Alina, mia cara, ricordi i gloriosi giorni in cui combattevo in battaglia? Oh, ricordo. Eri molto coraggioso allora. Ero? Significa che non pensi che io sia ancora coraggioso? Non l'ho mai detto, mio caro. Penso che tu sia il più coraggioso di tutti i guerrieri del mondo. Lo penso anch'io, ma mi mancano quei gloriosi giorni in cui conquistavo i regni e ogni grande guerriero si inchinava al mio potere. Sai, non hai mai conquistato davvero nessun regno. E i guerrieri che si inchinano a te? Non ricordo di aver mai sentito parlare di... Oh, non importa. Sto solo dicendo che vorrei andare di nuovo e rivivere quei giorni. Se devi, non ti fermerò. Fai come vuoi. Ma per favore, ritorna sano e salvo. Mi mancherai tanto. Oh, tornerò molto presto, amore mio. Il re radunò presto tutti i suoi soldati e ordinò loro di andare in guerra contro il regno vicino. Ho sentito parlare di un re crudele che governa quella terra. Vendicheremo il popolo di quel regno e li libereremo tutti. Il re Brian e il suo esercito combatterono coraggiosamente e ferocemente contro il re malvagio. Ma alla fine il re Brian perse e lui e tutto il suo esercito vennero fatti prigionieri nelle segrete del crudele re. Il povero re Brian era affamato e veniva trattato molto male. Rimase lì per molti giorni e presto divenne magro e debole. Un giorno rubò un foglio e una penna a una guardia dormiente e scrisse una lettera alla sua regina, Alina. Mia regina, sono intrappolato nelle segrete del malvagio re. Per favore, porta tutto l'oro, i gioielli e ogni piccola ricchezza che possediamo e salvami da questa miseria. Per favore, sbrigati, amore mio. Il re tirò fuori un braccialetto che aveva nascosto nei suoi vestiti. Aveva l'emblema reale del suo regno e chiunque l'avrebbe riconosciuto. Avvolse il braccialetto attorno alla lettera e lo gettò attraverso una crepa nel muro. Spero che qualcuno lo trovi. Spero solo che non sia il nemico. Il braccialetto era molto luccicante e quindi attirò l'attenzione di un uccellino. L'uccellino si avvicinò al rotolo e lo raccolse dal braccialetto. Sorvolò le terre e alla fine si fermò vicino ad un uomo che era seduto a riposare sotto un albero. Oh, ciao! Che cos'è questa cosa che hai portato qui? Un braccialetto? Oh, porta l'emblema del nostro re! Come è arrivato qui? Era un uomo semplice e onesto e decise di andare immediatamente al palazzo per consegnarlo. Quando arrivò lì, andò direttamente dalla regina. Mia regina, l'ho trovato quando ero fuori in campagna. Potrebbe essere importante, quindi te l'ho portato. Grazie, signore. L'uomo si congedò e dopo averlo fatto, la regina Alina lesse immediatamente la lettera. Perso la guerra? Prigioniero? Oh no! Il mio amore è stato imprigionato in un altro regno. Cosa devo fare? Se vado da sola nel palazzo del re crudele, potrebbe prendere anche me come prigioniera. E non posso fidarmi di nessun altro con un tesoro così grande. Così la regina escogitò un piano per salvare il suo amore e portarlo lontano dalle grinfie del malvagio re. Quella notte si tagliò i bellissimi capelli lunghi e si vestì con un mantello scuro. Assomiglio molto ad un ragazzo. Spero di riuscire ad ingannare il malvagio re. Prese con sé un flauto e si allontanò dal palazzo. La regina Alina camminò tutta la notte, sperando che tutto sarebbe andato bene il giorno successivo. Quando il sole sorse, raggiunse il regno del malvagio re. Andò a palazzo per incontrare il re Era molto nervosa quando arrivò lì. Tu chi sei? E perché sei venuto nel mio regno? Salve, Altezza. Io sono un suonatore di flauto in viaggio da una terra lontana. Ho sentito della tua grandezza e ho deciso di suonare per te una melodia con il mio flauto. Oh, e pensi che le tue melodie siano abbastanza buone da piacermi? Che pensiero divertente! Per favore, lascia che ti suoni una sola melodia. Prometto che non hai mai sentito niente di bello come quello che suonerò. Ottimo! Fai come ti pare, ma attenzione ragazzo, se non mi piace quello che suoni, ti metterò con tutti gli altri prigionieri che ho. La regina Lina era felice di aver ingannato il re e accettò le sue condizioni. Tirò fuori il flauto e iniziò a suonare una melodia molto bella. Il re cominciò a meravigliarsi di quanto fosse bella la melodia. Fu presto incantato dalle morbide note melodiose che suonavano sulla punta delle dita della regina Lena. Suonò per un po' di tempo e presto finì la sua canzone. Wow, è stato davvero molto bello! Avevi ragione, ma non ho mai sentito musica così straordinaria in tutta la mia vita! Perché non resti nel mio palazzo e suoni per me? Mi dispiace, Altezza! Ma le mie melodie sono belle solo perché viaggio così tanto. I nuovi e meravigliosi posti che vedo rendono le mie melodie così belle. Capisco cosa vuoi dire. Molto bene. Cos'altro posso darti come ricompensa? La regina Lina sorrise a questo. Questa era finalmente la sua possibilità. Bene, Altezza. Hai detto di avere molti prigionieri. Perché non me ne dai uno come compagno per i miei viaggi? Ne vorrei tanto uno! Tutto qui? Potrei darti qualcosa di molto meglio, come oro o gioielli! Oh no, mio re! Posso assicurarti che ciò che chiedo vale più di qualsiasi gioiello al mondo! Il re chiese che fossero portati prigionieri. Presto tutti si misero in fila davanti a lei. Quando vide il suo amato marito, quasi gridò. Il mio re! Che cosa? Ho detto che è lui. Ho scelto quest'uomo come mio compagno. Ottimo! Puoi prenderlo. La regina Lina e il re Brian si congedarono e lasciarono il regno. Camminarono per molti giorni e molte notti. Ma la regina non rivelò mai la sua identità. Continuò a parlare con voce maschile e il re non pensò neanche che quella potesse essere la donna che lui tanto amava. Suonò il flauto mentre tornavano nel loro regno. Il re adorava le melodie che suonava e non se ne stancò mai. Suoni così bene. Sai che in realtà io sono il re del prossimo regno? Lascia che ti ripaghi. La regina voleva stuzzicare un po' suo marito. Un re? Ne dubito. Non sei bello come un re. E i tuoi vestiti sembrano essere stati raccolti da un bidone. Come osi? Sono un re! Vieni con me al palazzo e vedrai. Sto solo scherzando. Se sei un re, vai per la tua strada. Continuerò a viaggiare. Forse ti visiterò un'altra volta. Va bene, ma sappi che ti sono molto grato. I due si salutarono e il re si diresse verso il suo regno. La regina trovò una scorciatoia e presto raggiunse il suo palazzo prima del re. Si vestì in modo normale e andò incontro al suo amore. Quando il re entrò nel palazzo, tutti a corte furono molto preoccupati. Corsero dal re e lo circondarono. Mio re, dove sei stato? Eravamo così preoccupati. Vostra Altezza, sembrate così magro e stanco. Venite, Altezza! Permetteteci di procurarvi vestiti puliti. Il re sorrise e parlò con tutti loro. Ma non guardò una sola volta la regina. Pensava che lo avesse tradito. Non si accorse nemmeno dei suoi capelli corti. Come ha potuto farmi questo? L'unica donna che abbia mai amato e non ha neppure tentato di salvarmi. La regina cercò di parlare con il suo re, ma lui la evitò completamente. La regina era molto triste, ma presto decise di fare qualcosa. Il giorno successivo, mentre il re era seduto imbronciato a corte, sentì una melodia familiare provenire da qualche parte. Cos'è quella melodia? L'ho sicuramente sentita suonare da qualche parte. Sono io, grande re! Sono venuto a trovarti! Sono molto felice di vederti, ma non mi hai lasciato ieri per viaggiare per il mondo? Come sei riuscito a viaggiare in così poco tempo? Tu sei davvero un re! I tuoi vestiti sembrano un po' meno polverosi! Bene, perché sei venuto ora? Bene, hai detto che mi avresti ricompensato! Sono venuto per la mia ricompensa! Certamente, ragazzo mio! Cosa desideri? Oro? Ricchezze? Un flauto di cristallo? Chiedi e ti sarà dato! Nessuna di queste cose conta per me! Voglio solo una cosa! E quello... sei tu! Quella voce! Alina si tolse il mantello e si rivelò a Brian. Rimase sbalordito e si vergognò molto. Perché non mi hai detto che eri tu? Ah, non importa. L'ho fatto per divertirmi. Io? Mi dispiace così tanto per il modo in cui ti ho trattata. Sono così felice che tu mi abbia salvato. Ti amo moltissimo. Anche io ti amo, dolcezza. Sappi che ogni volta che sarai nei guai, sarò sempre pronta a salvarti.